Il totale dei profitti illeciti ottenuti in un anno di lavori forzati dal traffico di esseri umani è stato stimato in circa 32 miliardi di dollari nel 2005. In tutto il mondo quasi il 20% delle vittime della tratta è costituito da bambini. In alcune parti dell'Africa e della regione del Mekong i bambini sono la maggioranza, raggiungendo addirittura il 100% delle vittime in alcune zone dell'Africa occidentale. Negli ultimi anni, la maggior parte delle vittime di tratta individuate in Europa sono arrivate dai Balcani e dall'ex Unione Sovietica, in particolare da Romania, Bulgaria, Ucraina, Federazione Russa e Repubblica di Moldova. Dal Sud America il traffico di esseri umani si verifica in un numero ridotto di paesi e le principali destinazioni per le vittime sono Spagna, Italia, Portogallo, Francia, Paesi Bassi, Germania, Austria e Svizzera. La quasi totalità di questo traffico è a scopo di sfruttamento sessuale. La tratta dall'Africa colpisce principalmente le comunità africane occidentali, in particolare le donne e le ragazze nigeriane. Il traffico proveniente dal Nord Africa, Marocco e Tunisia è ancora molto limitato, ma sembra essere in aumento. La tratta dall'Africa dell'Est, in particolare Uganda e Kenya, si verifica principalmente in direzione del Regno Unito. Più di recente sono stati interessati dal fenomeno i cittadini cinesi, così come le donne del Vietnam e della Cambogia. Queste sono normalmente sfruttate nella prostituzione al chiuso, come ad esempio centri massaggi, saune e centri di bellezza. Questa è l'ultima fotografia che dottor Sarica e il suo ufficio ha redatto, ma voi state stilando un nuovo rapporto che uscirà tra pochi mesi. Ci può anticipare qualcosa su quelle che sono le tendenze, cioè come si sta muovendo il fenomeno, che differenze ci sono rispetto alla scheda che abbiamo appena ascoltato? Beh sì, negli ultimi anni si registra decisamente un aumento della tratta, un aumento dei casi di tratta per sfruttamento lavorativo, quindi a livello percentuale sicuramente quel 79, diciamo 17% tra sfruttamento sessuale e forza lavoro, ecco questa forbice si sta chiudendo, quindi i casi di sfruttamento lavorativo sono aumentati decisamente, quasi duplicati a livello globale. E quindi questa è sicuramente una tendenza che si può notare e ecco, a livello di flussi le tracce che avevamo visto qualche anno fa si confermano, nel senso che sicuramente oggi si continua a notare un aumento, un'espansione, una grande diffusione della tratta che ha origine nell'est asiatico, soprattutto nel sud-est asiatico, non solo a livello europeo ma a livello mondiale. Ecco, questa è una delle caratteristiche della tratta dell'est asiatico, magari non è intenso in alcune regioni come può essere la tratta, che ne so, dei Balcani, sì, o dell'Africa occidentale, ma è molto diffusa. Vittime dell'est asiatico sono state identificate non solo in Europa e non solo nelle Americhe, ma anche per esempio nel Medio Oriente, anche nell'Africa, in Ghana, in Sudafrica, persino nel piccolo paese dell'Esoto sono state identificate le vittime dell'est asiatico, come anche nell'ex Unione Sovietica e così via. Quindi ecco, questi elementi si continuano a emergono come di continuità rispetto al passato. Sì, fra l'altro esiste poi quello che viene chiamato il trafficking interno, per cui all'interno degli stessi paesi, pensiamo ad esempio al caso cambogiano, no? Ragazze vengono prelevate dai villaggi e portate nella capitale Phnom Penh, per poi essere ridotte in schiavitù. Ma torniamo invece all'esempio dell'Est Europa, che è un esempio che Vincenzo Castelli, che è presidente della On the Road Onlus, conosce molto bene, perché appunto in 20 anni di attività ha avuto a che fare con vittime provenienti dall'Albania, dalla Romania, dicevamo. Presidente Castelli, quanto il nemico è in casa nelle vittime di tratta, cioè quanto la proposta della migrazione e poi della riduzione in schiavitù arriva da, nel caso che citavamo, no, di questa ragazza, dal fidanzato Adrian, arriva da un familiare, arriva da... Quanto è presente questo fenomeno? Ma sicuramente io credo che la tratta vada inserita dentro una riflessione globale proprio legata ai temi della migrazione, cioè io credo che al principio di tutto ci sia questo progetto migratorio che da molti anni anche in Italia avuto nel femminile un aumento sempre più costante e sempre più forte. Quando le donne abbandonano i paesi di origine, la Romania o altri, penso anche dall'America Latina, non solo legato al tema della tratta a fine sfruttamento sessuale, ma come si diceva giustamente prima, oggi lo sfruttamento lavorativo secondo me è il grande tema su cui dobbiamo lavorare di più, e noi abbiamo anche una casa d'accoglienza per uomini vittime di sfruttamento lavorativo e lo vediamo che c'è una differenza abissale tra dei mondi. Allora tutto il tema delle badanti che lasciano i paesi di origine, significa che in questi paesi non c'è più cura, cioè il tema dell'abbandono della cura di minori adolescenti, dei familiari, delle persone anziane in questi paesi di origine è un grande tema che ci fa capire come questa riflessione vada colta in una globalità più forte e direi anche più politicamente, economicamente da rivedere totalmente, perché questo è segno. La tratta credo che faccia parte proprio di uno degli indicatori forti dello squilibrio internazionale proprio delle economie, sì. Per cui quando uno comunque va via pagando, va via dal proprio paese, mette in gioco la propria storia, la propria esistenza, va incontro comunque sa all'imponderabile e spesso sa che questo imponderabile sarà anche riduzione di schiavitù, sperando che poi sia leggera, sia temporanea, sia comunque gestibile. Tutto questo ci fa capire che va fatta una grande riflessione fondamentale in cui anche tutto il tema stesso della migrazione va rivisto. In Italia in questo momento noi abbiamo delle situazioni imbarazzanti rispetto a tutto questo, il tentativo di criminalizzare la clandestinità, la mancanza di integrazione, la difficoltà e comunque con tutta una serie di situazioni che si stanno determinando oggi per bypassare questo tema, diciamo, della irregolarità. Sì. Rifugiati richiedenti asilo che abbiamo, spesso molte di loro sono vittime di tratta. Abbiamo avuto l'emergenza Nord Africa, dove molte ragazze, soprattutto quelle appunto dell'area nigeriana, comunque erano persone che erano trafficate già e poi hanno chiesto anche asilo. Ecco, Castelli, tutto questo ci fa capire che oggi va rivisto totalmente questo tipo di concetto. Castelli, la interrompo perché in effetti lei stava accarezzando il tema contigo che è quello dell'immigrazione, però con dottor Sarica volevo chiarire, noi stiamo parlando di tratta e non di traffico di esseri umani, in realtà poi i termini inglesi sono forse più precisi, no? Allora, l'immigrazione, noi stiamo parlando di tratta, cioè immigrazione forzata o comunque dopo c'è una situazione di forzatura, di riduzione in schiavitù, cioè non è lo smuggling quello che appunto in inglese si direbbe smuggling e il suo contratale sarebbe il trafficking. Quanto, dottor Sarica, giuridicamente l'apparato internazionale, quanto fa sì che i trafficanti di uomini, di chi riduce in schiavitù, di chi traghetta i migranti al di là del Mediterraneo e poi li riduce in schiavitù, quanto questo apparato giuridico consente alle polizie di punire i trafficanti? Oppure ci sono delle lacune? Diciamo innanzitutto che attualmente la situazione della cooperazione internazionale tra le agenzie di polizia e le agenzie investigative è sicuramente migliore di quanto non fosse negli anni 90, prima della creazione della Convenzione internazionale sulla criminalità organizzata e del protocollo di Palermo. Oggi in teoria ci sono molti strumenti per il coordinamento delle agenzie investigative, della polizia, a iniziare con l'Interpol, a livello europeo c'è l'Europol, Eurojust, ci sono anche gli strumenti delle Nazioni Unite all'interno della Convenzione di Palermo, chiaramente nella pratica non sempre tutto funziona bene, ci possono questi meccanismi che in teoria dovrebbero funzionare perfettamente, poi nella pratica ci possono essere dei ritardi, delle incomprensioni, dei problemi di dialogo tra le diverse autorità, ma chiaramente insomma questi problemi poi hanno delle conseguenze devastanti nei confronti delle vittime. Certo, fra l'altro immaginiamo, la interrompo perché nel caso ad esempio della potente rete nigeriana che traghetta migliaia di prostitute verso l'Europa. Stiamo parlando di una rete che parte da Abuja, parte da Lagos, poi però ha delle basi in Marocco e poi ancora in Spagna e poi ancora in Italia. Si pensi al caso italiano di Castelvolturno, ad esempio, che adesso è molto sotto traccia, ma negli anni scorsi era incredibilmente visibile e potente. Quindi è chiaro che andare a mettere d'accordo polizie di così tanti stati e spesso così tanto lontani chiaramente richiede uno sforzo immenso. Un altro punto però che volevo toccare appena prima del traffico con il presidente Vincenzo Castelli di On the Road Onlus è quello della vittima, cioè qual è la molla che alla fine fa dire alla vittima: io denuncio il mio sfruttatore, io mi tolgo dalla strada e in ultima istanza mi rivolgo a voi che siete, no, che partite col vostro pulmino e fate la statale Adriatica cercando il contatto con queste prostitute. Castelli. Ma intanto va detto che in Italia c'è una legge che prevede che non ci sia solo necessariamente la denuncia per i sfruttatori, ma anche la possibilità che le persone vengano prese in carico in programmi di protezione sociale purché siano vittime di tratta, quindi voglio dire, quello che noi chiamiamo un percorso sociale, non solo giudiziale. Questo per esempio è un elemento importantissimo che in Italia ci ha permesso di agganciare moltissime ragazze che non potevano denunciare o non avevano elementi così forti per la denuncia, e questo però ci ha permesso lo stesso di inserire ragazze anche che non hanno denunciato in programmi di protezione sociale. Questo è molto importante, che tra l'altro è stato recepito anche nell'ultima direttiva dell'Unione Europea a tutti i paesi, che dovrà essere tra l'altro ratificata entro l'aprile del prossimo anno a tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Sì. Quindi questo è un dato molto importante, perché significa che la ragazza che è vittima di tratta, per la sua situazione di vittima in cui è stata sottoposta, ha diritto a un riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari che le possa permettere di entrare in un programma dove sa che il tentativo che si vuole fare con lei non è tanto quella di omologarla, ma di rendere il più possibile autonoma. Castelli, stia lì perché c'è l'informazione sulla viabilità che incombe, poi torniamo a parlare di tratta. Nessun luogo è lontano. E quest'oggi a Nessun Luogo Lontano stiamo parlando di probabilmente il secondo business al mondo dopo la droga, il traffico di esseri umani, la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, a scopo di sfruttamento lavorativo, un fenomeno che ha i suoi riflessi anche in Europa e in Italia. Ricorderete, citavo inizio a trasmissione, il caso di quella ragazzina macedone venduta a Venezia per 3.000 euro, la punta di un iceberg, di un fenomeno gigantesco che è sommerso e che i dati, le ricerche dell'ufficio anticrimine dell'ONU e antidroga dell'ONU ci stanno aiutando a svelare. Castelli stava sottolineando come esiste un meccanismo, una forma di protezione per chi denuncia i suoi sfruttatori, quindi la vittima di tratta, come dire, ha un incentivo in qualche modo a uscire dall'oscurità. Ma io volevo tornare da Sarrica per capire meglio quelli che sono gli sfruttatori. Abbiamo parlato dei nigeriani, che hanno sicuramente un apparato di un certo tipo, cioè garantiscono un flusso costante, no, di immigrazione a scopo di sfruttamento. Esiste solo la grande rete di trafficanti, oppure anche nel caso della tratta, come nel caso dello smuggling, esistono i fai da te, esistono i freelance, esistono quelli che nell'equivalente dello smuggling, cioè dell'immigrazione, si prendono un canotto e cercano di attraversare il Mediterraneo? Sì, sicuramente esistono i trafficanti, diciamo, non organizzati o non così organizzati come appunto le reti nigeriane o le reti dell'est asiatico o rumene. Un caso per tutti è quello, il fenomeno dei lover boys in Olanda, ma insomma l'Olanda chiaramente il fenomeno è stato documentato per primo là semplicemente perché le autorità sono riuscite a intervenire prima, ma è un fenomeno che accade in tutta Europa, ovvero la classica situazione della ragazza adolescente che diciamo viene adescata da un ragazzo belloccio e che poi la sfrutta nei bordelli o nella strada. Quindi spesso questi ragazzi riescono a gestire una, due, magari tre ragazze alla volta, e sicuramente non c'è un network di criminalità organizzata, ma questi fenomeni sono abbastanza diffusi. Si pensi soltanto che in Olanda, insomma, gran parte delle vittime, adesso mi sembra che diciamo tra il 30% e il 40% delle vittime identificate sono vittime di questo tipo di fenomeno. Sì. Chiaramente il trafficante, lo sfruttatore non organizzato, diciamo, fa un danno tra virgolette minore rispetto alle grandi organizzazioni, perché i grandi flussi di tratta internazionale, soprattutto internazionale, riescono a essere sostenute nel tempo soltanto da una grande struttura organizzativa, quindi diciamo, ecco, i grandi flussi con grandi, che durano per tanto tempo e con grande numero di vittime, riescono ad essere soltanto organizzate da delle strutture gerarchiche che riescono a gestire i migranti, che riescono a minacciare le famiglie, sì, nei paesi di origine, che riescono a falsificare i passaporti e così via. Ecco, l'ultima domanda invece volevo farla a Castelli. Quanta consapevolezza c'è nelle vittime una volta che arrivano in Italia, in Europa? Abbiamo citato all'inizio il caso di questa ragazza rumena che, insomma, qui era stato promesso un lavoro normale in un ristorante. Quanto c'è questo feticcio, no, che viene agitato, cioè una vita nuova, o quanto invece, come dire, sanno più o meno a cosa andranno incontro? Io penso che questa ultima sicuramente sta diventando sempre più vera, cioè se pensiamo agli anni 90, quando abbiamo iniziato a lavorare noi davvero, il grado di conoscenza di quale sarebbe stato poi la loro collocazione in Italia era davvero difficile. Oggi c'è sempre di più questa coscienza, perché comunque nei paesi si parla molto di questo tema. Io sto lavorando da alcuni anni in Romania in accordo con ONG, con i nostri ministeri, ho fatto una sorta di patto di reciprocità per lavorare, fare formazione congiunta tra operatori rumeni e italiani. Per esempio, ci sono campagne che, diciamo, denunciano la situazione di non essere ingenui, di informarsi, eccetera. Quindi c'è sempre di più questa coscienza di sapere più o meno quello che uno verrà a fare in Italia. Il problema di fondo, credo, che comunque molto spesso il partire è determinato da tantissime variabili, e quindi il rischio, anche alto e anche a volte in parte conosciuto, viene messo comunque, sì, viene messo in conto. Sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Grazie allora, grazie ai miei ospiti, grazie a Fabrizio Sarrica di UNODC, Ufficio Anticrimine e Antidroga dell'ONU. Buona giornata, buon lavoro Sarrica. A voi, grazie. E buona giornata anche Vincenzo Castelli, presidente di On the Road Onlus. E adesso cambiamo decisamente pagina, andiamo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti perché proprio ieri a Ferragosto è iniziata la procedura di regolarizzazione di decine di migliaia di migrati irregolari, stiamo sul tema, provvedimento voluto da Obama e dalle potenti conseguenze politiche in vista dell'appuntamento elettorale di novembre. Ascoltate Mario Platero. Ma dunque è un piano, direi, che è andato al di là delle migliori aspettative che l'amministrazione Obama poteva avere, non solo da un punto di vista dell'immagine con i latinoamericani, ma proprio dal punto di vista dell'immagine per l'intera campagna elettorale dell'amministrazione. Vediamo di ricostruire che cosa è successo. Come sai, da tempo in America c'è il problema degli immigrati illegali, pensa sono oltre 12 milioni, si è cercato varie volte di risolvere questo problema in modo da poter dare a queste persone una qualche forma di residenza legale, e alla fine non si è mai riusciti a trovare il compromesso. In giugno Barack Obama ha un'idea, emette un ordine esecutivo secondo il quale i giovani al di sotto dei 31 anni che siano arrivati in America da bambini coi genitori immigrati illegali e che poi abbiano studiato in America, abbiano fatto la loro vita in America, possono fare una domanda per posticipare, diciamo così, di 2 anni il rischio di deportazione o di illegalità, e in quei 2 anni possono richiedere un permesso di soggiorno che gli consenta di lavorare. Ecco, è un po' un escamotage ovviamente, perché non è una soluzione definitiva, però ieri abbiamo visto per le strade americane decine e decine di migliaia di giovani giovani, cioè l'impatto visivo di questa cosa è stato straordinario. Sono andati in tutte le città americane, naturalmente ci sono coloro che si oppongono. In Arizona, per esempio, pensa che il governatore dell'Arizona, che è uno degli stati più duri sul fronte dell'immigrazione, ha detto di non essere d'accordo con questa cosa e quindi si piegherà davanti alle istruzioni federali, però fa di tutto per ostacolare questa innovazione. Come? Per esempio non consentendo a questi giovani di avere la patente, oppure non consentendo loro di avere certi permessi di lavoro. Ecco, la questione è molto politica e qui ci avviciniamo appunto alla vicenda elettorale, perché da una parte abbiamo Mitt Romney che ha scelto Paul Ryan, che è un bianco tipico tradizionale del Wisconsin, come compagno di corsa, e non ha scelto diciamo Marco Rubio, per esempio, senatore della Florida, ispano-americano. Molti pensavano che avrebbe dovuto fare una scelta di questo genere per bilanciare il fatto che lui è bianco, che Obama è nero e che quindi un po' di minority, un po' di minoranze dovevano essere in qualche modo rappresentate in questa corsa elettorale. Non l'ha fatto. Qua in gioco c'è la Florida. Io credo che questa azione di Barack Obama lo aiuterà moltissimo sul fronte delle elezioni, lo aiuterà soprattutto in Florida, che è uno stato chiave per vincere le elezioni 2012. E in questo percorso ideale, gentili ascoltatori, siamo partiti a inizio trasmissione dall'Australia, che appunto fronteggia questi 1500 arrivi l'anno di immigrati irregolari, soprattutto da Indonesia, Sri Lanka, Afghanistan. E da lì poi siamo passati a tratteggiare quello che è un fenomeno assolutamente contiguo, perché nel momento in cui c'è un'immigrazione irregolare affiancata dallo sfruttamento si delinea il fenomeno della tratta, che ha pesanti ripercussioni anche nel nostro paese, non solo in Europa, e l'abbiamo capito grazie alla voce di Fabrizio Sarica dell'Ufficio Antidroga e Crimine dell'ONU e a Vincenzo Castelli, On the Road Onlus, che è uno dei volontari che per strada cerca di accogliere le vittime e fornir loro una possibilità di salvezza. E poi sempre tema contiguo, però, che ancora una volta dimostra quanto il fenomeno dell'immigrazione sia politicamente giocabile, appunto la campagna elettorale di Obama, che è cominciata da tempo e che adesso insomma cerca di accattivarsi il voto dei latinos con questa campagna di regolarizzazione di questi immigrati regolari. 1.700.000 circa sono le stime, è iniziata ieri, vedremo nei prossimi giorni anche che ripercussioni avrà appunto sui principali stati americani. 13:56:38 secondi, abbiamo il tempo di girare il mappamondo. WhatsApp, notizie dall'altro lato del mondo. E stiamo sempre in tema immigrazione, perché l'associazione dei lavoratori immigrati greca, secondo quanto riferiscono alcuni quotidiani di Atene, denuncia 500 aggressioni a sfondo razziale compiute in Grecia negli ultimi 6 mesi, e quindi l'associazione denuncia una violenza e una deriva xenofoba che è in atto nel paese. Addirittura si dice i migranti irregolari non potrebbero nemmeno più passeggiare indisturbati nelle strade. Secondo questa denuncia, le vittime sono state aggredite nella maggior parte dei casi con sbarre di metallo, pugni di ferro, mazze e coltelli. L'ultimo episodio gravissimo di cronaca: domenica scorsa un iracheno di 19 anni è stato aggredito all'esterno di una moschea improvvisata nel centro di Atene. E cambiamo continente, ma poi ce ne occuperemo nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Andiamo in Somalia, non ne parliamo da un po', dove i caschi blu dell'ONU hanno avvertito che sarebbe imminente l'offensiva da parte delle forze AMISOM, i caschi verdi dell'Unione Africana, alla città portuale di Kismayo, sud della Somalia, una delle ultime e più importanti roccaforte dei miliziani somali di Al-Shabaab legati ad Al-Qaeda. A riferirlo è l'emittente locale Radio Shabel. E poi continua a tenere banco il processo alle Pussy Riot, con proposte da parte di vari magazine per dare copertine alla più avvenente, alla 22enne del terzetto, che sta diventando sempre di più un personaggio mediatico. C'è addirittura un sit-in quest'oggi, anzi domani a Milano, sempre per il trio punk che tanto fa tremare Putin. Perché? Perché proprio domani è attesa la sentenza. Ma adesso i titoli di coda. con i quali ringrazio Massimo Brugnone, Miriam Lucchetti in redazione, Robby Scaltriti che ha dato musica e ritmo anche questa puntata, voi gentili ascoltatori per essere stati con noi anche quest'oggi. L'appuntamento è domani alle 6.30 con la replica e sempre domani 13.15 con Nessun Luogo Lontano.